benvenuti alla quarta puntata di Cialtroni nello spazio. La trasmissione socio-culturale informatica tenuta dai cialtroni del Circo Lab. Dunque, oggi parleremo di Indie Media, un progetto che sicuramente molti di voi avranno sentito, lo vedremo più in dettaglio. E poi finalmente parleremo di Linux, visto che ormai vi abbiamo cercato di spiegare che cos'è un sistema operativo. Oggi finalmente presentiamo il nostro pinguino. E poi il software di oggi sarà GIMP, un software per l'editing di immagini, un ottimo software per l'editing di immagini. E poi qualche notizia. Ma prima di andare a parlare di questi software, diamo un paio di aggiornamenti di quello che si muove nel mondo open source. Prudenti ma convinte, le pubbliche amministrazioni europee abbracciano il pinguino, è il titolo di un articolo che è stato pubblicato recentemente su Apogea Online. Perché oltre che a Vienna e Monaco, la migrazione verso Linux procede anche in Norvegia. Ma in che senso la migrazione? I pinguini migrano verso il freddo, il caldo? Sarebbe divertente. No, in realtà per migrazione verso il software libero si intende tutte quelle tutte quelle macchine che vogliono passare da software proprietario, come appunto è Windows, verso Linux. Ci sono dei vantaggi e degli svantaggi, in particolare per le amministrazioni pubbliche, che in alcuni casi hanno migliaia di macchine, come ad esempio Vienna, che ne utilizza 16.000. Ecco, per le amministrazioni pubbliche ci sono dei notevoli vantaggi, soprattutto di costi, non nel breve periodo ma nel lungo periodo, nel passare verso il software libero. Non solo le pubbliche amministrazioni, anche in Argentina una recente statistica ha stabilito che più del 40% delle aziende argentine fanno uso di open source e tendono anche a modificarlo a loro piacimento. E in generale si calcola che in America Latina l'utilizzo di piattaforme GNU Linux sia intorno a una quota del 60%. Oltre che passare verso macchine Linux del tutto, molte pubbliche amministrazioni scelgono di passare solo verso alcuni programmi che sono liberi e molto simili a quelli che già utilizzavano. Ad esempio OpenOffice, che è installato praticamente è molto simile a Word, che è un programma abbastanza diffuso, direi che anzi è installato sulla quasi totalità delle macchine delle pubbliche amministrazioni. Cioè un programma che serve per scrivere dei documenti. Passare verso OpenOffice permette di rispondere, di risparmiare un sacco di soldi, e in modo anche piuttosto indolore, in quanto non è poi così complicato imparare a usare OpenOffice se già si conosce Word. E invece a livello italiano come siamo messi, Alessandro? Beh, a livello italiano ci sono una serie di studi. Si parla del Comune di Roma, che ha commissionato uno studio sulla fattibilità della conversione delle proprie macchine ad open source. Tendenzialmente, dato che io lavoro per una pubblica amministrazione, direi che il problema principale è la scarsità di tecnici e comunque di personale specializzato in grado di assistere ai normali utenti. Quindi direi che in Italia si paga la carenza di personale ormai cronica nelle pubbliche amministrazioni per tutto. Beh, ma è anche vero che comunque nelle pubbliche amministrazioni, diciamo in quelle entità che hanno deciso di passare dal software proprietario al software libero, l'investimento, cioè diciamo che i soldi che vengono risparmiati in licenze vengono normalmente investiti per appunto formare il personale, quindi si ha tra virgolette un doppio vantaggio: ci si libera dal monopolio del software proprietario e in più si forma i propri dipendenti. Ecco, tendenzialmente dovrebbe essere così, ma in Italia non è vero. Le pubbliche amministrazioni risparmiano solamente e non si curano della preparazione del personale, quindi con conseguenti potenziali disagi poi per gli utenti. Però diciamo comunque è ancora un percorso abbastanza agli inizi, quindi bisognerà vedere un po' cosa succede. Adesso passiamo alla scaletta che avevamo invece annunciato e iniziamo da presentare il sito internet di Indie Media. In particolare lo facciamo partendo un po' dalle origini di Indie Media, che è nato durante le contestazioni di Seattle nel 99. Ed è un sistema che ha fatto subito furore. In Italia è nato attorno alle contestazioni all'Ocse di Bologna nel 2000, poi è andato perfezionandosi ed era pienamente attivo al periodo delle mobilitazioni contro il G8 di Genova. L'idea rivoluzionaria che sta alla base di Indie Media è la possibilità non solo di pubblicare ciascuno quello che vuole. Questa cosa è nata praticamente con la nascita del web, ovvero la possibilità ognuno di aprirsi un proprio sito di scrivere quello che voleva, ma quello di raccogliere all'interno di uno stesso sito in una maniera abbastanza semplice, e andremo anche a spiegare come si fa, la possibilità di dire quello che si vuole, però tutti all'interno dello stesso sito e senza avere conoscenze tecniche particolari. In particolare, data la storia di Indie Media, che è nata attorno alle mobilitazioni, poi Indie Media si è anche molto concentrata sulla possibilità di fare dei documenti politici, insomma la possibilità di scrivere, di segnalare le manifestazioni che ci sono, piuttosto che pubblicare le foto delle manifestazioni. È stato per esempio molto utilizzato nel periodo di Genova, soprattutto per quanto riguardava le immagini e i filmati che migliaia di attivisti, che poi appunto hanno preso nel corso del tempo, sono sempre stati chiamati sempre più spesso media attivisti, che appunto hanno utilizzato il sito di Indie Media per dire quello che volevano e raccogliere tutto all'interno di un sito. Si calcola che nei giorni di Genova si sia passati da una media precedente di 5-6 messaggi nuovi al giorno su Indie Media, fino anche a una cinquantina insomma di messaggi all'interno del Newswire. Indie Media è diviso in tre parti. C'è una parte di sinistra che porta tutti i link all'interno sia del sito italiano, quindi gli Indie Media locali divisi in regioni o le categorie che ci sono all'interno del sito, come ad esempio la categoria antifascismo, antimafia, o le categorie più dedicate ai migranti, la repressione, o tematiche di saperi e filosofia. Poi ci sono dei dossier che sono stati preparati dagli attivisti Indie Media e i link a tutti i siti internazionali che fanno parte del circuito. Io devo starmene fermo come una pietra accanto al... La parte centrale è invece gestita da un collettivo che si auto-organizza attraverso mailing list e chat. Mentre la parte che più ci interessa, e andremo subito a vedere come si fa a partecipare, è la parte di destra, ovvero il Newswire, la parte che è facilmente gestita da chiunque. Come si fa dunque a pubblicare sul Newswire di Indie Media? È molto semplice, bisogna seguire il link che si trova nella parte alta della pagina dove c'è scritto pubblica. E seguendo questo link si arriva a una pagina dove sono presenti le regole per pubblicare su Indie Media. In particolare c'è una policy che spiega quali sono le categorie di di post, di messaggi che potrebbero venire nascosti da, dai gestori del sito, e si può anche diventare facilmente dei gestori, come abbiamo detto. Ma cosa è? Si tratta di censura? No, non si tratta di censura, però vengono nascosti, non cancellati, semplicemente nascosti, i messaggi palesemente razzisti, sessisti e fascisti. Vengono poi occultati i messaggi di spamming pubblicitario e lo spamming elettorale, e anche la propaganda di partiti e di strutture istituzionali. Dopodiché vengono cancellati i messaggi, non cancellati, ma sempre nascosti i messaggi che contengono dei dati personali, che a volte vengono solo cancellati i dati personali, come ad esempio nomi, cognomi, indirizzi e numeri di telefono, che vengono sostituiti con delle X, oppure i messaggi che sono doppi o vuoti, quando per caso qualcuno non si è accorto che uno stesso messaggio era già stato pubblicato. E poi vengono anche nascosti altri tipi di messaggio, come ad esempio gli insulti, le minacce personali o i messaggi privi di contenuto informativo. Torniamo alla possibilità di pubblicare. È molto semplice, dopo aver letto insomma quali sono le policy editoriali, quindi aver capito quali sono i messaggi che possono venire nascosti, basta proseguire all'interno della pagina, scrivere un titolo, selezionare se si vuole una categoria tematica, come ad esempio antiproibizionismo, una categoria locale, come insomma quasi tutte le regioni italiane hanno una loro categoria, e una categoria interna che potrebbe essere video, radio, stampa o altre categorie, come ad esempio la categoria di fare indie media, quindi le discussioni diciamo così interna. Poi bisogna segnalare l'autore, che può essere uno pseudonimo, scrivere un sommario, e dopodiché si può scrivere all'interno il proprio articolo, che è possibile anche con pochissimi click arricchire di immagini, audio oppure video. Questa quindi era una panoramica su come si fa a pubblicare su Indie Media, per chi volesse farlo. L'indirizzo del sito internet Italy, scritto con la Y finale, punto IndieMedia. Indie si scrive con una Y della I finale, cioè della I insomma che sta in mezzo, punto org. Italy.indiemedia.org. Oppure più semplicemente www.indiemedia.it. Questa era una presentazione breve di quello che è possibile fare con pochi click attraverso il sito di Indie Media. Ascoltiamo adesso un brano musicale di Hot Club The Frank, il pezzo si chiama Aicha, e è possibile scaricarlo attraverso il sito che abbiamo già più volte segnalato, www.s8suono, con l'otto scritto in cifra, e s8suono.org/, cioè la barra ogle. Thank you. Teniamo questa ballata di sottofondo mentre iniziamo a parlare del nostro pinguino preferito, ovvero di Linux. Abbiamo spiegato l'altra volta che cosa si intendeva come sistema operativo, che cos'è, è quella cosa che fa funzionare il nostro computer, che riconosce il nostro hardware, e Linux è un sistema operativo. Il programma, diciamo, che sta alla base di tutto, che si accende, diciamo, praticamente insieme al computer, che poi ci permette di lanciare gli altri programmi. Esattamente, quello che mi ha spiegato l'altra volta. Allora, no, facevo un, magari qualcuno non aveva assistito alla nostra fantastica puntata precedente, quindi un minimo di storie. Allora, Linux è stato ideato da Linus Torvald, uno studente finlandese. E la sua prima versione è uscita nel 1991, e mentre nel 99 è uscita la prima serie, diciamo, che è entrata sulle macchine di produzione, la versione 2.2, e attualmente siamo alla versione 2.6 stabile. E diciamo che oggi cercheremo di spiegare quali sono i passi per poter installare una macchina Linux, o perlomeno provarla, e quali possono essere le problematiche. Diciamo che per il grande pubblico Linux si può installare attraverso una distribuzione, ovvero un pacchetto preparato da delle aziende generalmente, oppure anche dalle singole da singoli personaggi come la Slackware, che contengono non solo Linux, ovvero il sistema operativo, che è di pochi mega, quindi è piccolo, e che, diciamo, da solo non farebbe ben poco appunto. Ma contiene tutta una serie di programmi rilasciati comunque sotto licenze libere, tendenzialmente per il 99%, e queste distribuzioni, diciamo che possono essere anche abbastanza diverse tra di loro. Le più note sono quella di Red Hat, che attualmente non esiste più in versione gratuita come Red Hat, ma prende il nome di Fedora, che è una distribuzione diciamo molto votata alle novità, comunque ai pacchetti più recenti e alle novità. Poi esiste la SUSE, che è un'altra distribuzione molto utilizzata, una distribuzione europea, molto utilizzata nelle pubbliche amministrazioni, nelle aziende. Anche questa è a pagamento. Recentemente è uscita una versione gratuita che ha però un po' di limiti per quanto riguarda gli aggiornamenti. E ne esistono poi svariate altre, ricordiamo la Mandrake, che è forse quella più conosciuta perché è gratuita ed è anche quella più user friendly. Cosa vuol dire user friendly? ovvero, beh, quello che vuol dire in inglese, nel senso che è tendenzialmente facile da utilizzare per chi è meno esperto. Ma però mi hanno sempre detto che Linux non è poi così facile da utilizzare. Allora, Linux è sempre stato un sistema operativo dedicato a chi aveva un certo bagaglio di conoscenze informatiche in grado di interpretare anche certi comportamenti del sistema operativo. Tendenzialmente le distribuzioni come la Mandrake, la SUSE, ma anche Red Hat, eccetera, sono distribuzioni pensate comunque per il desktop, quindi per gli utenti finali. E diciamo che se non sono proprio per tutti, vanno bene per tutti quegli utenti che hanno un po' di pazienza di seguire le istruzioni a video e non semplicemente cliccare avanti ok, e poi per il resto non hanno grandissimi problemi. Rimane un problema di base per quanto riguarda Linux, che è il riconoscimento hardware, perché comunque soprattutto per quell'hardware di nuova concezione o per novità, magari spesso, per periferiche sfortunate oppure per periferiche sfortunate non esistono driver. Quindi ad esempio, tanto per essere un po' più concreti, se comprate una stampante economica è abbastanza probabile che Linux non la riconosca. Oppure se avete attivato la nuova DSL e vi siete fatti mandare un modem USB, dovrete faticare un po' a farlo riconoscere. Anche per quanto riguarda gli scanner, il supporto non è ancora completo al 100%, quindi diciamo che c'è ancora un forte limite alla diffusione di Linux sui desktop, dovuto alla mancanza di supporto dell'hardware più a buon mercato. Però vabbè, smettiamo un attimo di parlare appunto delle sue poche brutte caratteristiche. Linux ha di estremamente positivo soprattutto la leggerezza del sistema e il fatto che installando Linux su un computer anche vecchio, questo computer risorge e ci fa realmente vedere quali sono le potenzialità dell'hardware quando non è sotterrato da software tipo le ultime versioni di Windows XP che richiedono 256 MB di RAM soltanto per partire. Quindi diciamo, mettendolo su un computer un po' vecchiotto Linux, abbiamo subito una sensazione di una potenza maggiore, appunto dovuta al fatto che Linux è notevolmente più piccolo di dimensioni e quindi funziona meglio in generale sull'hardware, cioè funziona meglio, quindi in particolar modo sui computer un po' più vecchi li ridono una seconda giovinezza. E come si fa a prendere Linux? Allora, per quanto riguarda le distribuzioni gratuite, è possibile scaricare la distribuzione da uno qualsiasi dei siti dei distributori, quindi ad esempio una distribuzione gratuita che può essere consigliabile è la Mandrake, si scarica da www.mandrake.org, diciamo che è quella più facile da utilizzare. Oppure esistono tutta una serie di distribuzioni che non è neppure necessario installare, ovvero vi scaricate il CD, ve lo masterizzate e lo potete vedere in tutte le sue funzionalità direttamente dal CD senza bisogno di installare nulla. La distribuzione tipica di Live, come si chiamano, è la Knoppix, e si può scaricare dal sito www.knoppix.org. E se io non avessi una connessione veloce, non posso scaricarlo, dove le posso trovare queste distribuzioni? Dunque, le distribuzioni vengono spesso allegate a riviste o cose di questo tipo, quindi è possibile tranquillamente trovarle in edicola senza un sovrapprezzo rispetto alla rivista. Oppure, vabbè, si possono far doppiare da amici o cose, perché comunque la distribuzione è gratuita, non c'è nessun copyright sopra. Ah, dopo questa breve panoramica su Linux, ne parleremo ampiamente anche nelle prossime puntate, la prossima puntata in particolare. Cercheremo di presentare magari una delle distribuzioni più semplici da utilizzare, una live, ad esempio la Knoppix di cui già stava parlando Alessandro, ma adesso io darei la parola a Marco per presentarci il software di questa settimana, rigorosamente open source, rigorosamente che funziona su Windows e su Linux. Come si chiama il software di questa settimana? Allora, il software di questa settimana è GIMP, lo pronuncio all'inglese, in italiano si può pronunciare GIMP, però sarebbe scorretto. Che cos'è GIMP? GIMP è un software di elaborazione di immagini. Cosa vuol dire elaborazione di immagini? Vuol dire io ho un'immagine in formato digitale, non so, la fotografia del mio gatto e un formato tipo, non lo so, in un JPEG o in un formato GIF o qualcosa. Io prendo questa fotografia, la posso modificare con appunto il programma GIMP in una maniera professionale, con praticamente lavorando su questa immagine con una serie di tool potentissimi per la manipolazione dell'immagine, potendo inserire in questa immagine altri oggetti, altre cose, potendo fare delle sfumature, dei Beh, per gli utenti, diciamo, di Windows, il GIMP può essere considerato un ottimo sostituto dell'Adobe Photoshop, notissimo software di fotoritocco. sì, infatti, addirittura provando Photoshop, cioè, ha diciamo le caratteristiche molto simili a quante sono quelle di GIMP. GIMP, tra l'altro, è un progetto che ha già sulle sue spalle un po' di anni, perché non mi ricordo di che anno è, però penso che abbia almeno un 7-8 anni di ricerca alle spalle, e i risultati già c'erano dalla versione 2.0, che era fenomenale per quanto riguarda appunto anche l'intuitività d'uso. E adesso siamo alla versione 2.2, qui ogni volta riescono a inserire nuove caratteristiche, ad esempio una delle funzioni avanzatissime per creare delle GIF animate con possibilità di oggetti che muovono a destra e a sinistra nello schermo. È veramente un prodotto professionale e utilizzato tantissimo appunto per fare grafica. Thank you. La canzone che stiamo ascoltando è un pezzo dei Dura Madre, gruppo toscano. Questo è, diciamo, l'album d'esordio del 2000, senza etichetta, e totalmente autoprodotto. E ricordiamo giusto che i Dura Madre hanno partecipato al Festival Sonica di Catania, e questo è il loro album. E con questa canzone i Cialtroni nello spazio vi salutano, giusto il tempo di far partire la nostra fantastica sigla, direi, Alessandro, visto che sei tu in console, devi anche alzare il volume, perfetto, e ci sentiremo la settimana prossima con la quinta puntata di Cialtroni nello spazio. Ciao da Francesco. Ciao da Marco. Ciao, va a cagare Francesco.